Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi iniziamo la giornata con il professor Marcello Tavio, che è tornato a trovarci, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Professore, con lei di prima mattina facciamo una sorta di ripasso. Un ripasso ragionato sulle misure che ci proteggono dal rischio di ammalarci e al tempo stesso rallentano la diffusione del virus. Io credo, professore, che quello che dobbiamo evitare è proprio di abbassare la guardia. Il rischio un po' c'è, è fisiologico, perché quando la situazione di giorno dopo giorno si mantiene, anche senza che ce ne rendiamo conto, noi allentiamo il controllo e quindi gli automatismi, per così dire, prendono il posto dei comportamenti, dei gesti che prima erano molto ragionati. Professore, anche lei intravede un po' questo rischio? Si dice, no, la troppa confidenza fa cadere la riverenza, è vero anche per l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza? Guardi, è vero, però prima di cominciare con il piglio del maestro severo che deve appunto riprendere gli studenti e far imparare la lezione a tutti, io vorrei cominciare con delle note positive, perché è la prima volta che ci sentiamo. Ma per questo, professore, io la invito, perché lei ci aiuta a guardare il bicchiere mezzo pieno, che non vuol dire non analizzare poi i rischi, ma proprio avere quelle, no? Quell'aiuto, certo, quell'energia che ci aiutano a vedere che c'è la luce, quindi possiamo, certo, farcela. Professore, certo, siamo tutto orecchi. Allora, è vero, noi quante volte abbiamo cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno quando le cose non erano proprio brillanti, e ci siamo riusciti. A maggior ragione adesso dobbiamo assolutamente essere consapevoli della strada intrapresa, dei successi ottenuti. Abbiamo molti meno casi, molti meno morti, gli ospedali si stanno finalmente svuotando anche dai tanti pazienti con Covid che erano entrati, quindi sono tornati sicuri, non che prima non lo fossero, ma per molte persone erano diventate anche un luogo di rischio, quindi gli ospedali stanno tornando alla piena normalità. La gestione dei pazienti con Covid è molto più tranquilla, abbiamo diverse strategie terapeutiche, alcuni farmaci verranno presto approvati con questa specifica indicazione. Abbiamo molti come ad esempio, professore? Ad esempio il Remdesivir, che è un farmaco che nasce con questa specifica indicazione, diversamente da altri che sono nati con indicazioni diverse e sono stati in qualche modo prestati al Covid. Quindi vede che le notizie buone sono numerose. Poi vogliamo aggiungere forse quella che interessa più tutti come cittadini, il fatto di tornare a molto spesso a lavorare con tranquillità, a riprendere le nostre attività ricreative, la nostra vita normale. C'è un prezzo da pagare per tutto questo? Direi che è irrisorio in confronto a quello che abbiamo vissuto. Ed è quello che diceva lei, semplicemente non abbassare la guardia, continuare ad avere quel distanziamento sociale che sia efficace dal punto di vista epidemiologico e sia sostenibile dal punto di vista sociale. Molti ascoltatori mi hanno scritto della loro difficoltà. Si ha un po' paura adesso ad avvicinarsi agli altri, professor Tavio, al lavoro, ma anche quando usciamo per andare a fare la spesa in farmacia. Insomma, sembra che la lezione di queste settimane di isolamento abbia avuto effetto, ma in qualche modo adesso che usciamo ci sentiamo un pochino più vulnerabili, o forse siamo più attenti. Quando parliamo di distanziamento fisico, cagliamoci un po' nella realtà anche per rassicurare e dare delle indicazioni. Vale sempre un metro e mezzo? Assolutamente sì, al di sopra di un metro e mezzo non è necessaria la mascherina, ovviamente. E al di sotto del metro e mezzo si deve indossare la mascherina, che è più che sufficiente per proteggere sia le persone sane che garantire che le persone malate non trasmettano l'infezione. In effetti all'inizio avevamo dato una disposizione molto severa, ovvero la mascherina serve soltanto al malato, per proteggere gli altri e non protegge il sano. Questo perché all'epoca si pensava che ci potesse essere una quota importante di persone che trasmettessero l'infezione per via aerogena, cioè anche a distanza. In realtà si è visto che il contatto diretto, la trasmissione cosiddetta per droplets, cioè per goccioline di saliva, è molto più importante di quella aerogena, se c'è. E quindi la mascherina protegge adeguatamente sia il sano che, tra virgolette, il malato dal pericolo di trasmettere l'infezione. Basta indossarla quando si entra in contatto con un'altra persona di cui non si sa lo stato di salute, in pratica che non fa parte del nucleo familiare. Questo è il prezzo che dobbiamo pagare per la riconquistata libertà. In alcune regioni rimane l'obbligo di uscire con la mascherina, ma professore, io so che lei passa praticamente le sue giornate all'ospedale di Ancona, ma se ne renderà quando esce, lei vedrà con il suo occhio clinico che ci sono tante persone che mettono un po' la mascherina un po' così, cioè fuori il naso, poi c'è chi l'appoggia un po' come una sciarpetta alla gola, chi la mette un po', la mette, la toglie, la tira su e giù. Professore, non voglio che lei ci sgridi nel farle fare il maestro, ma ecco, perché è importante quando utilizziamo questi dispositivi utilizzarli bene per noi e per gli altri? Perché se no abbiamo questa idea di essere protetti e poi la protezione non c'è, professore. Vero, verissimo. Vedi il caso dei guanti, no? Una persona si sente protetta perché ha i guanti, poi dimentica di avere i guanti e il guanto contaminato lo porta agli occhi o al naso, alla bocca, e quindi vanifica totalmente la presenza del guanto. Quindi occupiamoci della mascherina. Intanto la mascherina, se è comoda, è meglio. Ci sono, io lo dico per esperienza, le mascherine cosiddette FFP2 o FFP3 sono scomode da portare e nella maggior parte dei casi sono assolutamente sovrabbondanti e quindi inutili. Una mascherina cosiddetta chirurgica è molto più facile e più comoda da indossare. Quando serve? Quando serve soltanto se si entra in contatto diretto con una persona. Quindi io non ho niente da ridire a una persona che gira da sola senza mascherina, purché ce l'abbia in tasca e la indossi nel momento in cui entra in contatto, come abbiamo detto prima, con un'altra persona. Certo, in quel momento la deve indossare correttamente, ovvero deve coprire il naso e la bocca e aderire alla faccia. Quindi bisogna, c'è un piccolo ferretto che si può adattare al naso, bisogna essere sicuri quindi che aderisca bene al volto per poterla rendere davvero efficace. Professore, lavaggio delle mani, l'igiene delle mani è proprio una misura semplice quanto fondamentale. Ci sono delle indicazioni sui social, su internet, che dicono bisogna assolutamente lavare le mani con l'acqua calda, se no anche se le lavi col sapone a lungo 40-50 secondi non è abbastanza igienizzante l'operazione. Professore, è vero che ci vuole proprio l'acqua calda? Più calda è, meglio funziona? Ma guardi, a me non risulta che ci sia differenza tra acqua calda e acqua fredda se uno usa un sapone, non mi risulta assolutamente. Certamente per una questione fisica, di cinetica delle molecole, l'acqua calda aiuta a detergere meglio, ma in realtà l'efficacia dal punto di vista igienico è assolutamente la stessa se si usa il sapone e altri saponi igienizzanti. Invece mi sembra molto importante richiamare l'attenzione di tutti sulle mani, perché una persona si tocca il volto circa 20 volte in un'ora in media. Ecco quante occasioni abbiamo di portare una mano eventualmente contaminata a contatto con le mucose e quindi con il rischio di trasmettere l'infezione. Basta questo a ricordarci che in luogo pubblico ci conviene avere sempre a portata di mano un disinfettante e ricordare che meno le portiamo al volto distrattamente e meno rischi corriamo. Professor Tavio, prima di salutarla, lei è un infettivologo, i virus li conosce bene. Che cosa le ha insegnato questa esperienza? Che cosa ha imparato come clinico? Dunque, stiamo più che cosa abbiamo imparato, che cosa stiamo ancora imparando, perché in realtà questo virus ci insegna qualcosa di nuovo tutti i giorni. ricordiamoci che è una malattia nuova, e quindi sentirmi definire esperto a volte, non è il suo caso per fortuna, di una malattia nuova mi mette in grande imbarazzo. Nessuno è esperto di qualcosa di nuovo, dobbiamo fare l'esperienza, l'esperienza la stiamo facendo in questo momento sul campo. Cosa ci ha insegnato fino a questo momento SARS-CoV-2, ovvero il Covid-19? Che dobbiamo stare molto attenti ai nostri comportamenti e che con pochi aggiustamenti possiamo davvero limitare la diffusione di una patologia molto grave dal punto di vista sanitario e sociale. Questo è il primo insegnamento che ci ha dato. Poi ci ha insegnato a essere umili come medici, come ricercatori, e imparare sul campo a conoscere questa malattia che ci ha riservato e ci riserva ancora delle sorprese. E l'altra cosa che ci ha insegnato è che un sistema sanitario forte e flessibile è di estrema importanza per il singolo cittadino come per la società nel suo complesso, perché permette di superare le crisi più facilmente. Professore, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, spero di sentirla presto, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Io prima di salutarvi vi ricordo un appuntamento che mi sta particolarmente a cuore, l'Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, che fiorisce tutto il mese di maggio per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne, e tra l'altro per la prima volta in 36 anni non sarà distribuita in piazza dai volontari per la festa della mamma, ma si potrà direttamente ricevere a casa ordinandola su Amazon. Insomma, l'Azalea lo sappiamo, un fiore bellissimo e un fiore colorato per abbracciare tutte le persone importanti, anche stando lontani, è un fiore prezioso che ci aiuta anche a sostenere il lavoro di 5.300 ricercatori AIRC impegnati proprio a rendere i tumori che colpiscono le donne sempre più curabili. Allora, mi raccomando, non dimentichiamo questo appuntamento, la ricerca non si può fermare, è un'alleata preziosa per tutte le donne, come d'altronde testimoniano i risultati raggiunti per la cura di molti tumori grazie a diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e anche meglio tollerate per tutte le pazienti. Vi saluto, vi ringrazio, Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Anita Panizza in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Ci sentiamo a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata e grazie.